Il Cantico dei Cantici. Mi baci coi baci della sua bocca. Sì, più soavi del vino sono i tuoi amori. Soavi per fragranza sono i tuoi profumi. Profumo lezzante è il tuo nome. Per questo di te si innamorano le ragazze. Attirami a te. Corriamo. Il re mi introduca nella sua alcova per gioire e far festa con te. Per assaporare i tuoi amori più del vino. Ha ragione, di te ci si innamora. Chi è costei che sale dal deserto appoggiata al suo amato? Ho la pelle scura, ma sono affascinante, o figlie di Gerusalemme, come le tende di Kedar, come i padiglioni di Salomone. Non fissatevi sulla mia pelle scura, è il sole che mi ha abbronzato. Irritati con me i figli di mia madre, mi hanno posto a guardia delle vigne, e la mia vigna, la mia, non ho potuto custodirla. Amor dell'anima mia, dimmi, dove vai a pascere il gregge? Dov'è la tua sosta pomeridiana? Perché io non sia come una donna velata che insegue i greggi dei tuoi compagni. Se non lo sai, o incantevole tra le donne, segui le orme del gregge e pascola le tue caprette presso gli accampamenti dei pastori. Mia amata, tu mi sembri simile alla cavalla del cocchio del faraone. Quanto sono deliziose le tue guance tra gli orecchini, il tuo collo tra le collane di perle. Ti faremo orecchini d'oro incrostati d'argento. Mentre il re è sul suo divano, il mio nardo emana il suo profumo. Il mio amato è per me un sacchetto di mirra che riposa fra i miei semi. Il mio amato è per me un grappolo di cipro delle vigne di Enghetti, Quanto sei incantevole, mia amata. Quanto sei incantevole. I tuoi occhi sono colombe. Quanto sei incantevole, mio amato. Quanto sei affascinante. Il nostro letto è lussureggiante. Pareti della nostra casa sono i cedri. Nostro soffitto i cipressi. Io sono un narciso della pianura di Saron, un giglio delle valli. Come un giglio tra i cardi, così è la mia amata tra le fanciulle. Come un melo tra gli alberi silvestri, così è il mio amato tra i giovani. Alla sua ombra anelo di sedermi. Saporosi sono al mio palato i suoi frutti. Mi ha introdotta nella cella del vino ed ha inalberato su di me la sua bandiera di amore. Rinvigoritemi con focacce all'uva passa. Ristoratemi con mele. Io sono malata d'amore. La sua sinistra è sotto il mio capo. La sua destra mi abbraccia. Figlie di Gerusalemme, vi scongiuro per le gazzelle e le cerve della campagna, non destate, non risvegliate l'amore finché non lo desideri. Una voce. Il mio amato. Eccolo. Viene saltando sui monti, balzando sulle colline. Il mio amato è simile a un capriolo o a un cucciolo di cervo. Eccolo, sta ritto dietro il nostro muro, occhieggia dalla finestra, spia attraverso le grate. Parla il mio amato e mi dice: alzati, mia amata, mia bella, e vieni via. Ecco, l'inverno è passato, la pioggia è cessata, se n'è andata via. I fiori rispuntano sulla terra, è giunto il tempo della potatura. La voce della tortora si ode già nelle nostre terre. Il fico emette le sue gemme, le viti in fiore esalano profumo. Alzati, mia amata, mia bella, e vieni via. O mia colomba, che ti annidi nelle fenditure della roccia, negli anfratti dei dirupi. Fammi vedere il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso affascinante. Catturateci le volpi, le piccole volpi che devastano le vigne, le nostre vigne in fiore. Il mio amato è mio, e io sono sua, di lui che pasce il gregge fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, ritorna, mio amato, simile alla gazzella o al cucciolo di cervo, sul monte del balsamo. Thank you. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato e non l'ho trovato. Mi alzerò allora e farò il giro della città. Per strade e per piazze cercherò l'amore dell'anima mia. L'ho cercato e non l'ho trovato. Mi hanno trovata le sentinelle che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Le avevo appena oltrepassate quando ho trovato l'amore dell'anima mia. L'ho stretto forte e non lo lascerò finché non l'avrò condotto in casa di mia madre, nell'alcova di colei che mi ha concepito. Figlie di Gerusalemme, vi scongiuro per le gazzelle e le cerve della campagna, non destate, non risvegliate l'amore finché non lo desideri. Che cos'è che sale dal deserto come una colonna di fumo, esalando profumo di mirra ed incenso ed ogni essenza esotica? Ecco la lettiga di Salomone. La scortano 60 prodi tra i prodi di Israele. Tutti impugnano la spada e sono addestrati alla guerra. Ognuno cinge al fianco la spada contro gli incubi della notte. Un baldacchino si è fatto il re Salomone in legno del Libano. Ne ha fatto le colonne d'argento, d'oro la spalliera, il seggio in porpora. L'interno è stato ricamato con amore dalle figlie di Gerusalemme. Figlie di Sion, uscite a vedere il re Salomone con la corona che sua madre gli ha imposto nel giorno delle sue nozze, nel giorno della festa del suo cuore. Come sei incantevole, mia amata, come sei incantevole. I tuoi occhi sono colombe dietro il tuo velo, i tuoi capelli sono come un gregge di capre che discendono dal monte Galaad, i tuoi denti sono come un gregge di pecore da tosare che risalgono dal bagno. Tutte avanzano in coppia e nessuna è senza compagna. Come un nastro scarlatto sono le tue labbra. La tua bocca è affascinante, come spicchio di melograno è la tua guancia dietro il tuo velo. Il tuo collo è come la torre di Davide, costruita a strati perfetti, dalla quale pendono 1000 scudi, tutti trofei di prodi. I tuoi seni sono come 2 cerbiatti, gemelli di gazzella, che pascolano tra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, me ne andrò al monte della mirra, alla collina dell'incenso. Tutta incantevole sei, mia amata, non c'è in te difetto. Con me dal Libano, o sposa, con me dal Libano vieni. Discendi dalla vetta della Mana, dalla vetta del Senir e dell'Ermon, dalle tane dei leoni, dai monti dei leopardi. Mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa. Con un solo sguardo mi hai rapito il cuore, con una sola perla della tua collana. Come sono incantevoli i tuoi amori, sorella mia, sposa, quanto più soavi del vino sono i tuoi amori. La fragranza del tuo profumo è superiore ad ogni altro profumo. Le tue labbra stillano nettare, o sposa, c'è miele e latte sotto la tua lingua. La fragranza delle tue vesti è come la fragranza del Libano. Un giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa. Un giardino chiuso, una sorgente sigillata. I tuoi germogli sono un paradiso di melograni con frutti squisiti, di alberi di cipro e di nardo e di zafferano, di cannella e di cinnamomo, di ogni albero d'incenso, di mirra e di aloe, di tutte le essenze balsamiche. Sorgente di giardini tu sei, pozzo di acque vive che scaturiscono dal Libano. Destati, aquilone, vieni, austro, soffia sul mio giardino. Esalino i suoi balsami. Venga il mio amato nel suo giardino a cibarsi dei suoi frutti squisiti. Sono venuto nel mio giardino, sorella mia, sposa, a raccogliere la mia mirra e il mio balsamo, a cibarmi del mio favo e del mio miele, a bere il mio vino e il mio latte. Compagni, mangiate, bevete e inebriatevi, amici. Io stavo dormendo, ma il mio cuore vegliava. Una voce, è il mio amato che bussa. Aprimi, mia sorella, amata mia, mia colomba perfetta. Il mio capo è coperto di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Mi sono già levata la tunica. Come indossarla di nuovo? Mi sono lavata i piedi. Come potrei sporcarmeli di nuovo? Il mio amato introduce la mano nell'apertura e il mio cuore è impazzito per lui. Io mi sono alzata per aprire al mio amato e le mie mani si sono impregnate di mirra. Le mie dita grondavano mirra sulla maniglia del chiavistello. Io ho aperto al mio amato, ma il mio amato era già partito. Era scomparso. La mia anima era venuta meno alle sue parole. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Mi hanno trovata le sentinelle che fanno la ronda in città. Mi hanno percossa, mi hanno ferita. Mi hanno strappato il mantello, le sentinelle delle mura. Vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se troverete il mio amato, che cosa dovrete raccontargli? Che sono malata d'amore. Che cosa distingue il tuo amato dagli altri amati? O tu che sei la più incantevole tra le donne? Che cosa distingue il tuo amato dagli altri amati? O tu che ci scongiuri così? Il mio amato è bianco e rosso, spicca fra 10.000. Il suo capo è oro purissimo. I suoi riccioli sono grappoli di palma, neri come il corvo. I suoi occhi come colombe lungo i ruscelli d'acqua. I suoi denti sono bagnati nel latte e perfettamente incastonati. Le sue guance sono come aiuole di balsamo, come scrigni di aromi. Le sue labbra sono gigli che stillano flussi di mirra. Le sue mani sono anelli d'oro, incastonati di gemme di Tarsis. Il suo ventre è avorio lavorato, tempestato di zaffiri. Le sue gambe sono colonne d'alabastro, che poggiano su piedistalli d'oro fino. Grandioso come il Libano, giovanile come un cedro. Il suo palato è dolcissimo. Egli è tutto una delizia. Così è il mio amato, così è il mio amore, o figlie di Gerusalemme. Dove se n'è andato il tuo amato? O tu che sei la più incantevole tra le donne? Dove si è diretto il tuo amato? Noi lo cercheremo con te. Il mio amato è sceso nel suo giardino, tra le aiuole di balsamo, a far pascolare nei giardini, a raccogliere gigli. Io sono del mio amato, ed il mio amato è mio, lui che pasce il gregge tra i gigli. Thank you. Tu sei incantevole come Tirsa, mia amata. Affascinante come Gerusalemme. Impressionante come bandiere spiegate. Distogli da me i tuoi occhi, perché mi stregano. I tuoi capelli sono come un gregge di capre che discendono dal Galaad. I tuoi denti sono come un gregge di pecore che risalgono dal bagno. Tutte avanzano in coppia e nessuna è senza compagna. Come spicchio di melagrana è la tua guancia dietro il tuo velo. 60 sono le regine, 80 le concubine, innumerevoli le ragazze. Unica è invece la mia colomba perfetta, unica per sua madre, la prediletta di colei che l'ha generata. Al vederla, le giovani si felicitano con lei e la lodano le regine e le concubine. Chi è costei che s'affaccia come l'aurora, incantevole come la luna, sfolgorante come il sole, impressionante come bandiere spiegate? Sono sceso nel giardino delle noci per vedere il germogliare della vallata, per vedere se le viti sono in fiore, se ai melograni sono spuntate le gemme. Senza saperlo, il mio anelito mi ha fatto come i cocchi di Amminadib. Voltati, voltati sulla mita, voltati, voltati perché ti possiamo ammirare. Che cosa ammirate nella Sulammita durante la danza dei due campi? Come sono incantevoli i tuoi piedi nei sandali, o figlia di principe. Le curve dei tuoi fianchi sono come monili usciti da mani d'artista. Il tuo bacino, una coppa rotonda, mai priva di vino aromatico. Il tuo ventre è un mucchio di grano, circondato da gigli. I tuoi seni come cerbiatti, gemelli di gazzella. Il tuo collo come una torre di avorio. I tuoi occhi come i laghetti di Esbon presso la porta di Bat Rabbim. Il tuo naso come la torre del Libano che guarda verso Damasco. Il tuo capo si erge su di te come il Carmelo. Di porpora è la chioma del tuo capo, le cui trecce hanno incatenato un re. Quanto sei incantevole, quanto sei affascinante, amore mio delizioso. Quando tu sei eretta, sei simile ad una palma e i tuoi seni ne sono i grappoli. Ho pensato, voglio salire sulla palma per afferrarne i rami. I tuoi seni siano per me come grappoli di vite, il tuo alito come fragranza di mele, il tuo palato come vino squisito che scorre dritto verso il mio amore, scivolando sulle labbra assopite. Io sono del mio amato e per me è la sua passione. Vieni, mio amato, usciamo in campagna. Passiamo la notte nei villaggi. All'alba andremo a vedere le vigne per vedere se la vite germoglia, se sbocciano i fiori, se ai melograni spuntano le gemme. Là io ti darò il mio amore. Le mandragore esalano il loro profumo. Alla nostra porta ci sono tutti i frutti più squisiti, frutta secca e fresca che ho conservato per te, mio amato. Oh, se tu mi fossi stato dato come fratello, allattato dal seno di mia madre, incontrandoti per la strada, ti potrei baciare e nessuno potrebbe svergognarmi. Ti condurrei per introdurti nella casa di mia madre. Tu mi inizieresti all'amore e ti farei bere vino aromatico, succo del mio melograno. La sua sinistra è sotto il mio capo. La sua destra mi abbraccia. Figlie di Gerusalemme, vi scongiuro, non destate. Non risvegliate l'amore finché non lo desideri. Chi è costei che sale dal deserto appoggiata al suo amato? Sotto il melo ti ho svegliato, là dove tua madre ti ha concepito, là dove colei che ti ha concepito ti ha partorito. Ponimi come sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, inesorabile come gli inferi la passione. Le sue scintille sono scintille ardenti, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi sommergerlo. Se un uomo offrisse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, otterrebbe solo disprezzo. La nostra sorella è piccola, non ha ancora i seni. Che cosa faremo della nostra sorella nel giorno in cui la si chiederà in matrimonio? Se ella fosse una muraglia, le costruiremmo sopra merlature d'argento. Se fosse una porta, la rinforzeremmo con tavole di cedro. Io sono una muraglia. I miei seni sono come le torri. Tuttavia i suoi occhi sono come colei che ha incontrato la pace. Una vigna aveva Salomone a Baalamon, ed egli affidò la vigna ai custodi, e dai suoi frutti ciascuno doveva ricavare 1000 pezzi d'argento. La mia vigna, solo mia, è davanti a me. A te, Salomone, i 1000 pezzi e 200 per i custodi del suo frutto. Abitatrice dei giardini, i miei compagni sono in attesa della tua voce. Fammela sentire. Corri, mio amato, simile alla gazzella o al cucciolo di cervo sui monti del balsamo.